மரியாதை நேரத்தில் பண்ணா ஆச்சரியனோட உடைய ஆரோக்கியப்படுது. போராட்சி நட்டு விட்டு e mi dà quasi modulati quasi 20 watt, 10 a portante muta e quasi 20 modulati. Oh, va bene, la radio è bella, forte, è abbastanza penetrante, come si dice, ma è forte, dai, rispetto a un segnale specialmente, perché non è un segnalone, ma ripeto, è per colpa mia, e quindi la radio è molto molto forte. E poi quel microfono l'hai sistemato, no? Sì, lo so, l'ho sistemato. Ah, aspetta, te lo faccio sentire. Su questo, su Galaxy? Sì, sì. Aspetta, scusa, c'è un telefono. Ah, è lui che stava fischiando. Me lo dai il controllo. Chi è avanti? 1, 2, 3, prova di modulazione. Guarda un po'. Lei qua ha questo smitter che è molto raro, è un segnale 5 con picchi a 7 di modulazione. Che zona sì? Monte basso, però l'antenna non è sul tetto, è sulla finestra. Ah, per quello, va bene, che coda, la radio è buona. Ottima. Ah, ok, grazie. Tonino, sì? Yes. Un attimino che vengo subito. Ehi, K, chi sei, Kawasaki? K. Ehi, K, è un po' che non ci sentiamo, dai. Tutto a posto? Sì, e me, stiamo facendo alcune tre macchine in piattaforma qua in cemento del distrutto e mi ha dato molto a fare, capito? Poi oggi una palla meccanica qua a fianco, mi ero pulendo tutto, insomma, me ne è calzato tutto, anche la rete, ho dovuto rifare tutto al campo, insomma, una in visione ed è fatto il gruppo da qua. Vabbè, se sia per affare in campagna, poi mamma mia, non me ne parlare, dai. Ultimamente la sto un po' trascurando perché finendo tardi di lavorare ho poca voglia di fare qualcosa in campagna, però aspettiamo tempi più freschi. Però mi ricordo mi arrivavi più forte prima, o sei in un'altra zona? No, praticamente ho l'antenna incasinata, sto usando TMVide per raccontare le stazioni orarie e mi sto cercando un'antenna buona, tutto qua. Adesso bisogna che guardo su Amazon. Qua, quella che va meglio, rapporto qualità prezzo, la Venom, ce l'ha qualcuno qui a Sassari, ti dico che esce. veramente bene per quello che costa poi. Sì, lo so, io l'avevo ordinata infatti. E c'era quel periodo che c'era lo sciopero e non è mai arrivato. Quindi ho chiesto il mezzo se la piglia a luce. Adesso gliela faccio ordinare da mio figlio Gira Gira. Sì, ma chi ce l'ha qua va bene. Lo ascolto non bene, di più, va bene. Non siamo lontani, però rispetto ad altri, insomma, arriva bene. Vedo che anche gli altri gli danno dei bei controlli, quindi vuol dire che come te c'è un bel guadagno. Sì, cosa? 62, 66 euro e c'era Franco California, c'era. Capo, ma se li vale tutti, e qui arriva una bomba, sicuramente vicino a me, ma vedo che spara bene anche lontano. Sì, una bella zona comunque, è alto pure, dai. Non so se sei preciso, però non deve essere lontano da me, forse magari la parte alta rispetto a me. A me adesso ti hanno pulito qua dietro, quello... la palla meccanica, so quanto, adesso voglio fare un pulito qua dietro. Sono d'accordo, giustamente, e quindi voglio mettere un'antenna e un tralicetto di 15 metri, se va bene. Ci puoi preparare. Tu che zona sei tu? Sacramento. E qui 13 metri, sei zona alta oppure più in basso? Zona alta. E allora da lì dovresti sparare a 1000. C'ho un'antenna messa male. No, dico, non c'è bisogno di traliccio lì, basta un bel palo di 5-6 metri. Se sei aperto, io non so se la tua zona come sia. Io come ti sto arrivando? Com'è in ricezione con l'antenna? Ma in ricezione, guarda. Così così, trovi, avanti. Conta che sono anche un po' carico. 9-5-6, dai. Ripeto, ho solo usato un paracchino che ce l'ho svito un po' avaro, Ehi, ma sono sganciato, dimmi. Come stai parlando? C'è Kawasaki. Sugar, se non è 30 di carico. Ma con chi stai parlando? Con Tonino Kawasaki. Non sento io qua, non arrivo per niente, c'è uno mezz'ora. Ora, già sono le 30 arrivi. Non mi sentite entrambi, capito? Io sono in mezzo, diciamo, tra voi due, credo. Non arriva qua. Perché ha problemi all'antenna, sta accordando col TM1000. Sicuramente c'è un bel di stazionale, c'è l'antenna incasinata, ha detto. Quindi sia in ricezione che in trasmissione. Io c'ho più propagazione, c'è solo te. Si può entrare, sì? Sì, Franco, dimmi. Capo, buonasera. Niente, ciao anche a Tonino, ben ascoltato. Questo è quello là, Fra. Va bene, rispetto all'altra volta va benissimo. Sì, ci aveva un filo in corto. Mi sembrava strano che andasse così male quel microfono, è un bombo. Oh, va, Fra. Capo, dai. Ciao Claudio, non te l'avevo sentito. Va bene, come stai trovando quello dell'altro giorno? Lo sciule. Adesso va bene, adesso sta sfiggendo. 5-9, radio 5. Dovrebbe essere come il mio, Fra. Anche lui, anche questo, vabbè, è samurai come il Galaxy più o meno. Com'è come Tony? Invece, perché nessuno mi sembra con più alti, Non so se sia uguale al mio, dammi conferma, Claudio. Più acuti c'è uno che chiama la Sardegna, più acuti c'è quello di Franco, Fra. Anch'io direi così, però io non mi sento, ripeto. Così fa, così diciamo a orecchio. Vediamo un po' chi è che chiama la Sardegna, bu. Franco, mi senti? Sì, io ti ascolto, Tori. Io ce lo sono a Franco e a cosa bu, basta. Vabbè, dai, Fra, vi saluto e vado a mangiare, ciao. Dai, un abbraccio, buona carica, buon tutto, saluto in casa. Avanti, Franco. Cappa, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossimine, ci sentiamo. Cappa, ciao Tonino, buonasera. Cappa, ciao anche a te. Sai cosa sono, tanto non mi intende, non c'è più neanche a lui qui. Va bene, dai. Comunque, sì, stavo pensando anche io a mettermi quell'antenna lì comunque. Va bene, va. Io stavo usando quella autocostruita. Un canale da pesca. Hai capito? C'era via le piccoline e quelli grossi già. Sì, infatti non hai problemi di cornacchie, di piccioni, cose varie. Non hai problemi di gabbiani, no? Perché sono, mi sembra, 20 o 30 centimetri, poi sono robusti. Non è ingombrante come antenna. Cappa, sì, già la conosco perché me l'aveva piazzata una persona quando era in casa di Franco, quindi l'ho visto. E allora, dai, a te Franco. Capo, a volte non vi ascolto perché c'è questo che arriva anche segnale 9, qua arriva, per carità. E poi cade pure a Mazzalino hai sentito? No, io sono entrato una mezz'ora fa, ho fatto un paio di ex con cosa, mi schiavo Marino, poi sono venuto qua e basta. Perché devo lasciarle una roba per me, Franco Califfa, ce lo chiamo per se devo lasciarla. Continuate, ci sentiamo. Ehi, dai, buona carica. Hai capito, Franco, stavamo parlando della Venom. Ehi, cappa, non la conosco, l'antenna io non conosco quella. Però dice che è buona, perché è una 5 ottavi e in più c'ha i radialini piccolini. Eh certo, quindi non hai problemi di che ti facciano il danno, perché molti hanno paura che mettendo la pulmonare sul tetto dopo un po' devi andare a sistemare i radiali perché ti distruggono le cornacchie. Lì non c'è quel problema, penso che sia buono anche come ricezione, detto dagli altri, dai. Ma quell'antenna quanto regge di fatto? Non lo so, aspetta che guardo, dai, penso almeno un migliaio li regga, Allora se ce la fai io ne ho 600. Comunque per sicuro guardo, riprendi fra. Ehi cappa, sicuramente un migliaio quella lì li tiene, ma non di più penso, un'antenna, io ci farei affidazione, affidamento a quell'antenna lì, ma però molta gente li parla bene. Sì, per il prezzo che ha, 62, 70, su internet, costa la Sicilia, ma è buono, dai. C'è anche Franco California, mi arriva appena arriva. Allora, qui costa 51 euro, che negozio è? E c'ha 1000 watt di... regge 1000 watt di potenza. Allora, sì, va bene, me lo dirò subito adesso. Si chiama Am Radio Shop, il sito che qui la stanno vendendo a 51 euro. Ecco antenne Venom 5 ottavi, antenne alla base CB, alto rendimento. Sì, è così. Vediamo un po' le caratteristiche. C'ha 4,5 dB di guadagno, va da 26 a 30 MHz. Dai, è una buona antenna. Am Radio, com'era? Allora, il sito è Am, con l'H, è amradioshop.it. È anche italiano. Ok. Dai, con X, che adesso me lo cerco su internet e faccio l'ordine. A dopo, dai, grazie. Sì, capa, è lunga 5,80 m di lunghezza, pesa 3,5 kg, non è neanche pesante, dai, sul tetto, sul palo, dai. Sì, la conosco, perché ripeto, se aveva in casa Franco l'avrei perso anche per terra e usciva dallo stesso. Ma è buona come antenna, dai, non chiedo, provo a guardare sul sito. Dai, riprendi Franco, mangiato hai? Ehi, capa, ciao Tony, allora, dai, a dopo. Ho cenato tutto a posto, infatti me ne sono salito, ho detto di vedere se c'è qualcuno. Io ho sentito Marino che stava parlando con Giovanni di Torino, io sono entrato a salutare a Marino più che altro perché aveva già chiuso, invece poi mi ha rilanciato, quindi se ti ascolta Giovanni, e mi ha ascoltato un segnale di 7, una radio di 5, quindi siamo arrivati anche lì a Torino, dai oggi. Ehi cappa, con la propagazione e tutto. Come modulazione quale ti piace di più, questa o quell'altra con la MB5? Guarda, dovete fare in fretta il cambio, così riesco un po' a memorizzare, capito? Ehi cappa, adesso te lo faccio veloce, guardami. Ehi cappa, vedi Fra, questa è l'MB5 adesso. Questa è un po' più cupa, più toni bassi, quella là invece c'ha più toni alti, più squillante, sono proprio due diverse. Ehi cappa, infatti, quasi quasi gli lascio l'usciure. No, va bene tutti e due, dai. Forse questa ti sembra più vicina alla realtà, diciamo, in verticale. Però anche quell'altra la spinge, Ehi cappa, questa qua. Sì. Vabbè. Pensavo che non riuscivo a togliere questo microfono. Poi alla fine ho preso il tester, ho misurato filo per filo dall'interno fuori alla jack e mi sono trovato con uno che era interrotto. Cappa, ma era strano perché andasse così male quel microfono, porca miseria. Era bassissima. Dai, sono contento che hai trovato il problema. Cosa devo dire? L'attacco com'è? Quello a 4. Vabbè, a 4 poli, dai. Sì, a 4. Universale, dai. che peccato, no, io lo volevo provare nel cosa, come si chiama? Nel valvolare, questo qua. Invece c'ha gli attacchi diversi. Ehi capo, vabbè, ma sai cosa gli fai? Gli fai uno spezzone, gli fai, per non toccare il microfono. Ne ho fatto uno l'altro giorno, ho ordinato due spinuti da internet, da AliExpress, ho trovato un cavo spiralato, gli ho fatto le connessioni, però l'ho fatto più che altro per la macchina, per allungarmi il cavetto, e quindi ho fatto gli stessi collegamenti, capito? Non ho incrociato niente, e lo uso in macchina, magari ne ordino altri due di spinuti, busco un altro cavo e gli faccio, come dici tu, l'adattatore, dai. Capo, io gli faccio tutti così, gli faccio. Infatti nell'MPP5 c'ho l'adattatore, in modo che lo posso usare sia qua, sia nel 48, e nel coso lo posso usare anche, nel Presidente Lincoln. Sì, sì, ma io qua in macchina sono uguali, perché Samurai e Galaxy hanno gli stessi attacchi. Questo valvolare sembrava uguale, invece c'è qualcosa di invertito sicuramente. Capo, basta controllarlo bene. Aspetta, guarda, non pensavo che uscisse così, non pensavo. Infatti ce l'avevo staccato, l'ho messo da parte. Però se questo è buono, mettiamo questo qua. Capo, adesso c'è ancora Kawasaki. Kawasaki ha chiuso, che non mi ricordo. No, Torino ha detto che si allontanava, andava al computer e si ordinava l'antenna. Ah, meno male che sei tu e ti ricordi le cose. È un momento tutta. Dimmi, come c'è la regolazione, sia dell'apparecchio che del microfono? Guarda, c'ho il Mickey Gay al massimo della radio. E il Mickey Gay, la manopola del Mickey Gay del microfono a 9. Perché più di 9 non va. Praticamente come lo sto usando io, dai, preciso, anche io tutta manetta. Sì, tutta manetta. Più di così non va. Sì, ascolta, dimmi invece, quando parli le luci si abbassano dell'apparecchio? No, negativo, sono belle pipparti. Perché mi sembra che l'acqua tende, quando parli, tende a scendere appena appena, come che gli manchi corrente. No, qua no, vabbè, io il mio è attaccato direttamente alla 220, Lo so, ma dentro c'è un trasformatore, capito? Sì, ma non se ne scende niente, perché la luce dello smitter, dei due smitter, rimangono sempre belli accesi, belli piccanti. Non so, qua sembra che appena appena si muova indietro l'acqua, ma potrebbe essere il mio smitter un po' messo male, dai. Può essere anche la lampadina che se ne sta andando, capito? Oppure c'è un calo di tensione. No, solo quando parli tu, capito? Quando parli scende leggermente, l'ago si sposta verso sinistra, invece di avere picchi positivi vanno indietro appena appena, come che gli manchi un po' di alimentazione. Ah, ma strano. Qua mi dà tutto positivo. Tutto positivo qua. Non lo so, ma mi è successo altre volte, a me mi dà negativi e invece ad altri dava positivo, non lo so perché mi sono smesso, eppure molti mi arrivano con picchi allucinanti, positivi. Ma strano, ma io guarda qua addirittura mi sta dando, guarda adesso mi sta dando 90 watt, mi sta dando questa radio. E c'ho la potenza della radio, ce l'ho tutta a zero. E sto usando solo quello là, sto usando, mi saranno 90, 100 modulati. Ma sullo strumento della scarpa? Sullo strumento, sul rosmetro. Non è che c'ho un rosmetro da buttare, c'ho un Daiwa. No, pensavo che stessi guardando lo strumento dell'amplificatore. No, l'amplificatore strumento non è, perché è 747, quello lì è diretto, chi c'è lo strumento è quello del 131. E questo è il 507, però c'è lo strumento. Ma il mio non è strumento, io sto guardando sia lo smitter della radio, e lo strumento e c'ho il rosmetro. Sì, i miei picchi come sono? Positivi o negativi? O fermo? No, no, tutto a positivo. Perché qui anche a me me li dà positivi, però io ce l'ho collegato, diciamo, prima dell'apparecchio, l'acquadratore, dai. Non so come... io vedo che sta andando bene, perché quando mi dà negativo me ne accorgo da qua, Allora è un problema mio di questo smitter. Un po' l'avevo regolato perché era troppo avaro, mi ricordo prima la gente arrivava bassissima, quindi l'ho un po' aumentato di così più o meno a occhio, mettendo diciamo, a confronto con altri apparecchi. Sì, fra, ma anche a me lo smitter di qua adesso, tu quando ne parli, non mi dà il tuo segnale giusto, mi dà molto di meno, perché tu mi arrivi 5, mi arrivi scarso, 5 scarso, ma tu non sei 5 scarso, tu sei buono buono 7-8. Sì, anche a me mi dà basso, anche secondo me, in base alla radio che sento, anche secondo me sei 6-7 anche tu tranquillamente, forse anche di più. Capo, ma è così, perché questo lo smitter non è giusto, non mi dai i segnali giusti, capito? Questi Galaxy sono tutti così, non è... è un baracchino, dai, non è affidabile come strumentazione. C'ha così un ago per far capire che si muove, boh. Appunto. Perché io l'ho constatato col K, poi ho attaccato direttamente subito questo e c'hai 10 dB di differenza. Proviamo come esce in banda laterale. Vai USB. La prima cos'è? LSB o USB? Adesso io non vedo, sono a buio. Entra, guardalo, mettigli l'accendino. Aspetta che accendo il telefono, aspetta. Sì, USB la prima. Franco. We're going to be accompagnato, ho sempre abbinato a tutte le radio che mi sono passate sotto, ho sempre messo, ho sempre chiamato l'originale che mi ha fatto questo modo che ci ha fatto la parecchio. Franco, come ti arriva Natalino adesso con la nuova antenna? Natalino, ho sentito che aveva 20 watt, con 20 watt mi arriva 9, mi arriva un segnale da 8 a 9, buono, cosa che prima non arrivava. E quindi la, come si chiama, la Game Master funziona, dai? Sì, funziona abbastanza, anzi troppo bene. Ciao Natalino, buonasera. Ciao. Ciao Franco, ciao. Ciao anche all'altro Franco. Io me ne passo il giovedì, poi non mi fa comunque. Ci sentiamo alle prossime, dai. E dopo ti interrogo la legge di Ohm, dai. IV fratto R. Ovvio, dai che sei allenato adesso. Ci sentiamo alle prossime, dai, dai, buon tutto, buona... Buona carica di sonno. Avanti Frank. Ehi capo, dai. Ciao Natalino, ci sentiamo alle prossime, ci sentiamo. Oh Fra, ecco, ho toccato quella fa, non stavo spostando, ora non si tiene più in mano. Ah sì, no, questo il mio non scalda nulla invece. Ma io gli faccio una ventola, gli faccio. Bravo, non ti sono riuscito a tenerlo in mano. Ma il tuo è... c'ha la valvola, c'ha? Come la valvola? L'amplificatore è valvolare. No, quel piccolino, quelli che si usano in macchina, quelli 747, quei piccolini, da 100 watt. Ah, ho capito, e quindi è transistor, come, come il mio, però anche questo è preciso, però è, c'ha l'avvento, è grande, dai, è un barragione. Io ce li ho qui, infatti uno me lo metto qua adesso, me lo metto al fianco, intanto va a 220 anche quello, va, e me lo tengo sempre caldo, pronto. Chiacchieroni! Che è avanti, Carlo? Eia, son di rientro! Dai, mi hai sentito, la buonasera, dove sei? Sono quasi alle porte di Sassari, sto finendo la quattro corsie. Ci ascolti bene, sì? Mi sento da Alghero io, ma siete passati in banda laterale prima? Sì, capa, positivo, Carlo. Perché vi sentivo, ma io non ce l'ho qua la banda laterale in macchina, per cui non siete passati circa 10 minuti, ma io vi sentivo da Alghero, a te e a Franco. Da di Genova in ascolto. Vice Genova che sta chiamando. Sì, Carlo, così, abbiamo fatto una prova e poi invece ci ha rilanciato un amico di Cuneo, Franco ci ha fatto una chiacchierata e poi siamo passati nuovamente in AM. Vediamo un po' se Genova ci ascolta. Genova in ascolto, di Luciano. Ho capito Luciano, ma io qui c'ho un sacco di bailame. Avanti Luciano, buonasera, Franco qua da Sassari, insieme a Franco da Sorso e Carlo che è in barra mobile. Avanti ancora Genova. Franco, non sento più. Forse è caduta la propagazione, è caduta. E niente. Ciao Carlo, non so se mi ascolti tu a me, io a te adesso niente, poco fa ti ho sentito un paio di parole e basta. Comunque buonasera, ti ho ascoltato, non te lo posso dire, avanti a te. Non so se mi senti, io ti ho sentito dai parcheggi da quando ero all'aeroporto, ti senti molto bene, forte e chiaro. Ha detto che ti sentiva da quando è partito dall'aeroporto, forte e chiaro ti sentiva. Capa, vuol dire che la mia radio sta funzionando bene. Sono contento che mi ascoltino gli altri che mi ascoltano, sono io che non ascolto gli altri. Hai capito Carlo? Sì, io adesso sono praticamente arrivato davanti a Sanit, capito? Sono in quel rettilineo lì, dentro Sassari. Occhio mi, metti un chiodo allo Smith, se no ti faccio fare due giri. Anche io prima ho sentito quello di Genova, Luciano, arrivava forte, però poi è scomparso. Sì, è scomparso anche qua, Luciano, lo stavo scrivendo, infatti, Luciano. Ed è andato via, ma non era fortissimo qua, un segnale di 1-2, molto al limite, e invece poi l'abbiamo perso, dai. Franco, dimmi. Capa, no, io, a me mi è arrivato anche 9, mi è arrivato in questa radio, quello di Genova. Sto dicendo, ma Carlo è già a Sassari? Sì, è già alle porte di Sassari, sarà già lì vicino alla Germancard, dai. Ah no, ha detto che era al Tanit, quindi è già dentro Sassari. Ah, capa, come mai non lo sento? Mi senti adesso, Fra? Ti sta rilanciando, Fra. Ma io non lo sento però. Ci avrai QRM alto forse? Ah no, non ho QRM molto. C'è un QRM 2-3. Lo so, qua arriva fortissimo, ma ormai ce l'ho vicino a casa praticamente. Se ce l'hai vicino a casa è ovvio. No, io non lo sento. La Franco dopo se ci siete ancora in chiacchiera, appena arrivo a casa mentre mangio qualcosa già mi faccio sentire da casa, dai. Fra, l'hai sentito adesso? No, negativo. Fra un po' riprende da casa, ha detto, vedrai che ti scalda le orecchie. No, sto scusando, questo lo sto dicendo io. Qui mi sta arrivando addirittura a picchi di 9.20, 9.30. Ma ripeto, perché siamo nel raggio di neanche un chilometro sicuramente adesso. Capa, vabbè, voi siete più vicini, siete. Purtroppo è così. Sì, da casa già mi arriva abbastanza bene. C'è una bella posizione, però è strano che non ascolti nulla, perché lui ti ascolta bene qua. Vabbè, se io sgancio, magari non mi ascolta neanche lui. Probabile. Qualcuno vuole entrare? Ho sentito qualcosa sul fondo. Propagazione, eh. Carlo, dove sei? Sono fermo al semaforo qua, in corso città. Sempre più forte, Sono dalle tue parti, per cui ti arriverò a bomba. Ma tu vai dritto o giri? No, salgo adesso, corso Trinità, viale Umberto, e poi tiro su. Allora non ci passi qua, dai. Diciamo la parte più vicina l'hai già passata, adesso ti allontani. Passo davanti a casa di Natalino adesso. Hai visto l'antenna nuova? Sì che l'ho vista, già l'ho vista, mi ha mandato la foto lui e quindi l'ho vista in foto. Sì, anch'io l'ho vista in foto, ancora di persona no. Però vista in foto hanno fatto un bel lavoro, bella dritta, poi c'è tutte le altre, va bene, dai, un bel lavoro comunque. Avanti, Fra. Capo. Eppure visto hai. È anche in linea questa la radio, non pensavo, non l'avevo ancora provata in mano laterale. No, io questa lo so, la mia è spostata, lo so, da. Beh, non l'ho mai regolata, è la verità, ce l'ho 30, 40 anni forse, non è stata mai regolata. Capo, però questa era dal 2000 fermo, era la radio, dentro uno scatolone, e l'ho accesa, sì o no, neanche un mese fa, un mese, là, 20 giorni, un mese, 30 giorni, sarà una cosa del genere. E l'ho lasciata una sera e una notte accesa, tanto per... ed era tutta fuori frequenza. Ho detto, questa radio vuole presa e portata a aggiustare, vuole, tutto qua. Poi, l'indomani mattina che l'ho guardata, l'ho vista tutta in frequenza, ci vado un po' a palle. Ho guardato, l'ho provata. No, e ha cominciato a mettersi a posto mentre parlavo, si metteva a posto. Si è messa a posto da sola. Sì, sicuramente era tutta scarica, condensatori e cose varie. Si è un po'. Anche questo, quando lo accendo, per esempio, devo spostare un po' la frequenza. Quando scalda lo rimetto al centro. Dal caldo al freddo mi si sposta anche di frequenza. Questa è, adesso è un trattore, da quando lo sto usando è un trattore, caspita, è veramente una bella radio, ero da molto che non usavo queste, ero dagli anni 70, 80, 70, 80, 90 che non lo usavo più. È una bella bestia, vediamo un po' Carlo dove è arrivato. Sì. Bene, bene, sono contento che funzioni bene, che si sia ripigliata, almeno è rinata. Aspetta che ho rilanciato a Carlo e avete parlato in due. Carlo? Ehi, Viale Caprera, sei in mezzo alle case, adesso mi sei crollato, quella zona è negativa per me, perché ci parlo anche da quella zona, lì lupo grigio, e quindi proprio non... mi arriva un segnale di uno, forse nemmeno, dai. Quindi, stai per arrivare allora, dai. Tra un po' sei in Viale Trento. Sì, mi ascolti sempre comunque. Segnale di 7, radio 7. Eppure io vedo che non riesco ad arrivare, arrivo bassissimo. Ma l'aeroporto è più vicino, boh. Non lo so. Sta per arrivare a casa comunque, Carlo. A te il mic, Franco. Mi ascolti sempre così, sì. Sei più basso, però ti ascolto ancora. Se non ci sono sovrapposizioni straniere, ti ascolto. Ma parliamo in... proviamo in FM, va bene. Non lo so, ce l'hai l'FM, Carlo? Sì, l'FM sì. Dai, proviamo a passare. Fuori frequenza anche qui la centrale. Allora, la temperatura è comunque insorgendo il gas, il naturale, invece Franco sta usando il gas. Lo sai, Tomo?

mica stanno chiamando, rispondi. Allora, radio Gamma. Sì. Sono radio Gamma. Oh, yeah. Qui arrivava a basso, è al limite proprio. Capo, comunque va meglio, va, dai, così. Va. Già ci ascoltiamo abbastanza bene, mi sa che sta scendendo quel REM. Chi chiama Sardegna? Ti ascolto molto basso, Non lo sento, o non mi sente? Sicuramente. Non ti arrivava forte? No. Ho sentito malapena. Quindi, dai, non sono così messo male. L'ago non si muoveva, era appena appena di radio, l'ho sentito io. Capo. Vabbè. Se uno entra almeno a 5, 4 o 5 deve arrivare. Capo. È un po' rientrato Carlo. Sì, chi chiama Sardegna, ti ascolto molto basso. Avanti. Allora senti a te, a me non mi sente. Non lo so. È probabile. Ma mi è caduta qualcosa dall'agenda. Aspetta un attimo. Non c'entro io. Sono andato a finire dietro il mobile, Cazzo, adesso non so come fare. Vabbè. Guarda bene, a volte sono a posto di 100-500 euro. Che Dio ti ascolti. No, era il numero di telefono di Nicola, Lupo Grigio. Sei sfortunato allora, Allora, aspetta, sentiamo il mobile di nuovo. A volte cercando un numero o una cosa del genere è scippato, perché magari non la trovi ed è caduto dietro. No, ormai ce l'ho in memoria, questo mi ha dato lui il suo pezzo di carta. Capo. Sì. Io tutti i numeri ce li ho. C'ho sulla scrivania dove sto modulando io. C'ho uno di quelli tipo coso bollonato, no? Un tappeto, di quei bollo nero, tipo bollone. E sotto ci metto tutto quello che scrivo, che mi interessa, ce lo metto sotto. Questo l'avevo trascritto sicuramente, poi invece di buttarlo l'ho messo in mezzo all'agenda. Adesso stavo sventolando un po' ed è partito questo foglio. Guarda un po'. Già si trovano sempre quando sono a casa, quando cadono a casa. Dai, giù le roba da lì, tu lì della scrivania. Poi non ho voglia di toglierlo. Adesso dai cinesi ho preso quelle pinzette che sono lunghe un metro, non so se le conosci. A una parte c'è una specie di ragnetto con tre pinze e sopra c'è una specie di siringa. Tu premi, il ragnetto si apre, poi quando molli si chiude, no, molla. E se c'è una cosa, non so, dietro la lavatrice, la chiappa e te la porta su. Quella, sì, io la conosco. Quella la usano per tirare fuori roba dai lavandini, cosa così. È una specie di ragnetto, di micro pinza, è in acciaio, capito? Quando tu schiacci lì si apre, appena ti permette di acchiappare l'oggetto. Sai com'è? Le donne gli cadono di tutto dietro, rossetti, ombretti, quello che è. Invece di spostare la lavatrice con quella specie di appendice, o anche i meccanici a volte la usano, sia quella lì che quella magnetica. Sì, perché è comoda. Quello lì schiacci, c'ha il ragnetto e lo prende. È come la magnetica, quella con la pinetta. Quella lì ti cade una cosa in un buco che non entrano le mani, non entrano cose, ci mandi dentro quello e ti porta su tutto. Sì, ottima invenzione. Vediamo se Carlo è arrivato. Carlo? No, negativo, ancora Carlo non è arrivato. Probabile sta ancora collegato. I cinesi ricordati che inventano tutto, sanno fare tutto. Sì, infatti. Si è adatta la malattia, sono grandi lavoratori, per quello che vedo io. Quindi stanno sempre lavorando, mattina, sera, il tempo. poter mangiare, stanno già lavorando. Capo, mi sa che non mangiano neanche quelli. Ehi, qualcosa la mangeranno. Non oso pensare che cosa, però. Tutto quello che si muove. Così. Per carità, ci andrei manco morto lì. E io a volte vado a mangiare poi il giapponese, ma almeno si vede che è pesce, dai. Non mi fido. Meglio cucina italiana. Eppure qua ho degli amici che lavorano nei NAS, fra cui uno di questi ristoranti giapponesi, diciamo, mi ha detto che è uno dei più puliti che ha trovato. Davvero? Strano. Di questi ultimi di nuova generazione, però, Ah, no, perché prima, prima era un casino. Mi ricordo che hanno trovato roba di Yorkshire congelati, buh. Quella è la zia Maria. Finalmente. Capita come l'avevo detto. Ricordate che io sono di quelle parti. Io ci ho anche mangiato la zia Maria. No, io mai, meno male. I camionisti che mangiavano, che si fermavano. Aspetta, però non era cinese ancora, era ancora di Cambule, di Zio Giovanni, come si chiamava? Boh, si chiama Giovanni, Cambule comunque il cognome, dai. Capo, no, quelli erano sardi, non erano cinesi, eppure la gente si lamentava lì intorno, dice tutti i cani sono spariti. E allora, giravano la pasta con le mani, gli occhietti con le mani. Una volta gli ho chiesto il formaggio, mi ha detto no, ma il formaggio c'è già, e ne voglio un altro po'. Oh, me l'ha portato, me l'ha servito lei, non me l'ha lasciato sul tavolo, no. E si era puzzato da bui. Se no finisce il suo guadagno. Ehi, lo dico io. No, per carità, è che quando l'hanno chiuso mi ha saputo tutto come ha reagito. No, ancora, ripeto, era gestito da loro. Il problema è dopo è nato così, dopo qualche anno, dopo 10 anni mi sembra, che loro già non ce l'avevano più. Ce l'avevano altri in gestione. E zia Maria ce l'aveva, quella di Alghero. No, ma il ristorante non era più... mi ricordo che era cambiato la gestione del ristorante. Ah, così è. No, io mi ricordavo. Lei è entrata dopo, allora è entrata. No, prima, lei era prima. Poi l'hanno mollato e l'hanno preso altri. E lì hanno trovato congelato un po' di cani, dai. Aspetta, era proprio zia Maria, mica, che hanno trovato il cane nel frigo. Ecco, adesso, allora mi ricordo male io. La struttura era la sua, zia Maria, proprio. Però mi ricordo che la gestione aveva già cambiata. No, so, probabile che mi sbagli io, Io sto parlando di più di 20 anni fa. No, ma ti stai sbagliando, ti stai, perché è proprio zia Maria, la prima, che gliel'hanno chiuso addirittura il locale e gli hanno sequestrato tutto. Ci è andata bene allora, dai. Magari senza sapendo... Sardi e tutto, tanto ci vai e mangi tranquillo, non dici niente. Però se scopri una cosa del genere dopo è un casino, eh. One four division, one four. Niente. One four division. Ha detto siamo di zana, siamo usati. No, io che sciai, non mi zana. Division, la Francia, questo è la Francia. Ah, la Francia. La Francia. Sì, my friend, this is a 1-4 Belfast. Fatelo così. Non ti cambi. Fabien. Ok, my name is Fabien. Please, what's your name, what's your city name for you, please? Microphone back to you. Roger, my name is Francesco. Okay, Francesco, sì. Italiano, Francesco? Sì, Sardinia Island. Vabbè, scaggiù, Zemi. Ma sicuramente non, capisce l'italiano, perché trappola in francese. Poi gli ho detto Sabine Island, isola Sardegna, ma non abbiamo fatto in tempo, dai. Francesco, attenzione per il tuo, grazie mille, arrivederci, grazie mille. Arrivederci, comunque My Country, Sardegna, Sardegna. Attenzione Sardegna, grazie mille, avanti, avanti. Ok, prego, ciao, alla prossima, buona tarde, hasta luego. Un po' di tutto gli ho detto, dai. Avanti, fra. Poi francese, poi spagnolo, poi è proprio in italiano. Qualcuno la capirà, dai. Sì. No, io francese non ne conosco. Non so parlare. Se parlano l'italiano per me va bene, se no niente. Infatti bisognava dirgli bonsoir in francese. Non ci ho pensato, dai. Capo. Sì, vabbè, loro sono, anche loro, diciamo che sono come noi, ci sono quelli che studiano, che sanno le lingue e tutto, e ci sono quelli che non sanno, sanno solo la loro lingua. Un po' devi masticare un po' di tutto, dai, un po' pasticciato, ma bisogna cercare di farti capire. Ma anche lui un po' di italiano lo parlava, vedi, qualche parola l'ha detta, bisogna apprezzare il tutto, dai. Sì, ho capito solo Francesco d'italiano. No, ha detto arrivederci, buonasera, mi sembra, i saluti li ha fatti in italiano. No, o arrivederci, mi sembra che ha detto. Non ho capito bene allora. A un certo punto è arrivato anche Santiago Nove qua. Andava avanti lo speaker e poi scendeva, poi ritornava e poi scendeva. Sì, c'era la moto USB. Infatti, vabbè, è la propagazione che lo fa. Vediamo, c'è Carlo. Ma io Carlo, così me ne vado a letto, stiamo aspettando a te. E che ora è? Vediamo un po'. 1, 2, 3, le 10 sono, domani mi aspetta un'altra giornata, allora, finta di zinco. Aia, dove sei? A Sassari? Alghero sono. Poi ci ho buttato anche due lenzette, c'era un fiume, no? Ho detto, pare sicuro, mi porto un rocchetto di lente, ho messo un paio di filaccioni, ho preso tre belle anguille. Vedi. Guarda che è lato positivo. Vedi, ho unito l'utile al dilettante, non al dilettevole. L'importante è prenderli, poi... Ah, sei vicino a un lago, sì, aspetta, io me ne vado a poco. No, un fiume, è un fiumiciato, ma piccolino lì, un rigagnolo, però lì ci sono le anguille. Magari ce ne sono tante anche, perché io mi ricordo vicino a Tortobella c'era in un'azienda agricola, c'era questo tipo fiume, ma non molto grande, sarà stato un centinaio di metri, e dentro c'erano le anguille o iuia. Qui la prima che ho preso, appena calata la lente, ho fatto un